Resto raccompitolato nel confine fra libero e ridicolo, e riassorbo le nozioni sufficienti al mio istinto di prevalsa cavernicolo, che rende questa farsa ancora intatta solo perché grido libero. Partito per la rotta, re dei topi della fogna, non è il beat che manda in botta, qua la bici no si è rotta. Non è il senso che vale, è il silenzio che cade, è il sentiero dei dispersi cancellato da un rottame, di un rottame di sistema automatizzato, realizzato alla misura d'uomo che ora caca sopra un prato. Vero e autentico sul trono quel che cielo, ma nascosto nel kimono un uomo solo che fa pugni col suo ego. Vero e autentico dal palco il vostro coro, sarò forse presuntuoso ad ascoltarlo, ma il mio senso non lo spiego. E la mia musa non è Venere, è una tossica che al collo c'ha un cartello: stop guerra batteriologica, se muori qua non fai certo un affare. Fuori esco dal contesto, alimento le mie pare, spaccio il vero in ogni testo, ma non sarà certo un male. Quel che certo è che a guardare nell'abisso ti trasformi, ti trasformi. E vuoi saltare, e vuoi saltare, e vuoi saltare. Al di là del confine c'è la libertà che è in testa, oltrepassalo con gli occhi ma non basta a noi. Al di là della siepe c'è soltanto la tua testa, che annoda le radici, ricomincia e poi. Al di là del confine c'è la libertà che è in testa, oltrepassalo con gli occhi ma non basta a noi. Al di là della siepe non c'è quiete ma tempesta, ma io scappo sul confine fra coglioni e grandi eroi. Sto sul beat che mi ingoia, compulsività del rap, vorrei essere più west, ma sto suono è troppo trash. Son pastiglie antistress sopra litri di no, rivenduti a poco prezzo al mini market Bangladesh. Ma se posso vi accontento, certo, certo, siete veri. Il mio cervello scrive rime mentre vago per i vicoli, e io salgo mentre scendo, mentre sgretolo pensieri sulla torta di Natale per sti scemi con tre spiccioli a metà fra intrattenitore e clown. Scrivo in depressione in down, a metà fra scrittura ed underground. Col bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto di immondizie, è perfetta la metà della metà che non esiste. La metà che alla mia età non ha più piste, fossero in bolla per metà. Una metà sarebbe all'Inter, e quei babbi come me chiusi dentro a qualche bar per comprendere chi è il mostro nell'enigma della Sfinge. Al di là del confine c'è la libertà che è in testa, oltrepassalo con gli occhi ma non basta a noi. Al di là della siepe c'è soltanto la tua testa, che annoda le radici, ricomincia e poi. Al di là del confine c'è la libertà che è in testa, oltrepassalo con gli occhi ma non basta a noi. Al di là della siepe non c'è quiete ma tempesta, ma io scappo sul confine fra coglioni e grandi eroi.